1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo prima gli ospiti, avremo tra un'ora esatta, le 8:15, minuto più minuto meno, il sindaco più ricercato dal punto di vista mediatico in questi giorni, Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, chissà ancora per quanto, dopo la condanna in primo grado che ha subito, ma lui dice: io non mollo. Alle 8:15 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, e poi parleremo di terrorismo con l'allarme che è stato lanciato ieri. Una cinquantina di jihadisti sono passati per l'Italia, ne parleremo dalle 8:30, questo però dopo. Ora andiamo a sfogliare i giornali. È martedì 30 settembre, dunque l'ultimo giorno di settembre, mi risulta, sì? 30 giorni a settembre, sì, è quella roba lì, vabbè. È l'ultimo giorno di settembre, allora i titoli intanto sono quasi tutti dedicati alla direzione del PD ieri, al dibattito sulla riforma del lavoro. Il Sole 24 Ore apre così: Jobs Act, l'articolo 18 rimane nei licenziamenti disciplinari. Per il Corriere della Sera: basta scorribande sulla Consulta, questo invece è il titolo di prima pagina, perché c'è un'intervista al presidente della Corte Costituzionale. Articolo 18, vince Renzi, così Repubblica. La Stampa, articolo 18, via libera a Renzi. Il Messaggero, articolo 18, sia Renzi, sinistra in tilt. Per il Fatto Quotidiano, Renzi sfascia il PD e vince. Bersani usa il metodo boffo. Libero, il PD abbaia ma non morde, mentre il Giornale titola così: morte del PD in diretta TV. Il titolo invece del Manifesto mette la foto di Matteo Renzi e il titolo di prima pagina è: la voce del padrone, chi e perché licenziare lo decide l'imprenditore. Via l'articolo 18. Lavoro rovente nel PD, Renzi sfida i sindacati, questa invece è l'apertura di Avvenire. Dunque vedete, a parte il Corriere che ha un'intervista al Presidente della Corte Costituzionale, tutti i titoli di prima pagina sono dedicati proprio alla riforma del lavoro. Voglio partire però come al solito da letture diverse. Abbiamo sentito nel giornale radio la notizia che per qualcuno è una notizia che ha fatto scalpore e sta facendo scalpore, una notizia che non è confermata del tutto, ci vuole un ultimo pronunciamento di un giudice, ma ricordate la vicenda delle baby prostitute dei Parioli a Roma? Per 4 clienti di queste baby prostitute c'è la possibilità del patteggiamento. Il PM ha detto sì. Ovviamente ora ci vorrà il sì definitivo del giudice. Il che vorrebbe dire che queste 4 persone, questi 4 clienti, pur essendo consapevoli che stavano andando con delle ragazzine, rischiano al massimo 1000 euro di multa. Insorgono telefono rosa e garante dell'infanzia. Pagina 11 della stampa racconta: Grazia Longo, chiariamo subito che si tratta di clienti e non sfruttatori, ma sempre di minorenni, clienti di 14enni e 15enni, 2 ragazzine poco più che bambine costrette a prostituirsi. Ecco dunque che il via libera della procura ai primi 4 patteggiamenti: un anno di reclusione con sospensione condizionale però e oltre 1000 euro di multa sta scatenando un coro di critiche. Le critiche sono del garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora, la presidente di Telefono Rosa, tutta un'accusa sull'attuale sistema legislativo. Credo che per il tipo di reati contestati a questi imputati, dice Spadafora, il legislatore avrebbe dovuto ritenere non opportuna la possibilità del patteggiamento, che si traduce anche in una riduzione della pena. Insomma, il sì dei PM ai primi 4 patteggiamenti, insorgono telefono rosa e garante dell'infanzia. Sull'ok della procura, come scrive la stampa, ora si dovrà esprimere un giudice, ma già l'ipotesi concreta suona come un vergognoso schiaffo anche per Gabriella Moscatelli, presidente di Telefono Rosa. 1000 euro, tanto vale andare con una ragazzina, stiamo ritornando indietro di 150 anni, non si tiene più conto dei danni che vengono fatti a bambine e di come sia stato spezzato il loro futuro. E poi che messaggio mandiamo agli altri uomini, compresi i più giovani? Fate pure, tanto nulla ve lo impedisce né la cultura né tantomeno la giustizia. Per altri ci sarà il processo, spesso si è parlato del marito della senatrice Alessandra Mussolini, ma c'è anche il figlio del parlamentare Donato Bruno di Forza Italia, stata di Nicola Bruno. Per loro invece non ci sarà il patteggiamento. Anche il quotidiano nazionale dedica una pagina a questo tema: Baby Squillo, mano leggera dei PM ai clienti, un anno e 1.000 euro, un anno di pena peraltro sospesa non a tutti i clienti ma a 4 di costoro. Oh, è il giorno del tetto, come dicevamo ieri, che i presidenti di Camera e Senato, gli uffici di presidenza, vogliono mettere ai dipendenti di Camera e Senato. Diodato Pirone ne parla sul Messaggero, il titolo è questo: così il barbiere della Camera prenderà solo, quel solo è tra virgolette, 99.000 euro. C'è tutto il tutti i nuovi parametri, tutti i nuovi tetti. C'è da dire che tra l'altro il tetto di 240.000 euro, che forse verrà imposto oggi alla Camera e al Senato, è un tetto che in realtà sarà superiore, perché sapete che in Italia ci sono sempre le eccezioni, no? E allora nel calcolo non sono compresi contributi, alcune indennità, traduzione, lo stipendio del segretario generale della Camera sono i più pagati, passeranno da 480.000 euro a 360.000, di più non si riesce a scendere, e tra l'altro non prima del 2018 tutto questo verrà modificato. Sono quelle eccezioni, quelle modifiche, quelle cose, quei cavilli per cui non si riesce mai a decidere una cosa in Italia, e quella è sempre dal domani, dal futuro, con delle eccezioni, appunto, con delle indennità in più, quelle non si riescono a togliere, i diritti acquisiti, la rava e la fava, le solite cose, e quindi il risultato è questo. Racconta Diodato Pirone anche che i 21 sindacati, 21 sigle sindacali, si rivolgeranno alla magistratura. Questo è presumibile che possa accadere. Staremo a vedere. Intanto il Corriere della Sera intervista il presidente della Corte Costituzionale, che è Giuseppe Tesauro. Giuseppe Tesauro, presidente della Corte Costituzionale: sui giudici della Corte il Parlamento sta dando cattivo spettacolo. Così dice dopo lo stallo che prosegue da giorni Giuseppe Tesauro, intervistato da Sergio Rizzo a pagina 11 del Corriere. Vogliono riflettere molto? Benissimo. E si riferisce ai parlamentari. Si poteva anche fare con discrezione. Lo spettacolo che stanno dando in Parlamento si riverbera in modo molto negativo sull'immagine della Corte. In un momento come questo, questo spettacolo non lo dovevamo vedere. E poi parla ancora Tesauro: Berlusconi accusò la Consulta di essere egemonizzata dalla sinistra. Risponde il presidente della Corte Costituzionale Tesauro: la verità è che il mondo politico soffre il ruolo della Corte, concepita per limitarne il potere e correggerne le intemperanze. Parla poi della questione della fecondazione eterologa. Il principio non è stato affermato, come sulla legge della fecondazione eterologa, la legge 40 l'ha vietata, ma senza un fondamento giuridico costituzionale. Qui c'è in ballo il diritto decisivo a creare una famiglia con dei figli, riconosciuto con adozioni e fecondazione omologa. Perché non dovrebbe esserlo anche con l'eterologa? L'abbiamo definita una libertà incoercibile, utilizzando la formula dell'autodeterminazione e non del diritto, come avrei preferito. Parlare di diritto urtava suscettibilità interne ed esterne. Tra l'altro Tesauro precisa: io sono cattolico, faccio anche la comunione, sebbene non tutte le domeniche, ma sono pure un giudice della Consulta, e mi dica che senso costituzionale c'è in un divieto del genere, cioè il divieto della fecondazione eterologa. In tutta Europa la fecondazione eterologa era vietata solo in Italia, Turchia e Lituania. Ma questo articolo vince anche il premio Mani sul Volante per l'articolo che ci fa più incazzare della giornata per un passaggio quando si parla degli stipendi. Gli stipendi. Sentite il presidente della Corte Costituzionale alla domanda di Sergio Rizzo. Mi dice la sua busta paga? Risponde così. Il nostro stipendio è rapportato a quello dei magistrati in misura leggermente superiore. Pur non avendo l'obbligo di farlo, ci siamo adeguati alla logica dei tetti. Ed eccolo qui, guadagno 12.000 e dispari netti al mese. 12.000 e dispari netti al mese. Certo, se si considera la situazione del paese, siamo dei privilegiati, ma deve credermi, ci sono decisioni per cui non dormiamo la notte. Eccolo qui, 12.000 e dispari netti al mese, ma ci sono delle decisioni che prendiamo per cui non dormiamo la notte. Il presidente della Corte Costituzionale Tesauro, che poi risponde anche alla domanda: ma perché avete giudicato incostituzionale i tagli agli stipendi dei magistrati? Forse la domanda sottintesa è perché il vostro stipendio è parametrato appunto ai magistrati. Vabbè, ma non bisogna mai pensar male. C'era in ballo il principio dell'eguaglianza tributaria, risponde Tesauro. Se volevano aumentare il prelievo sulle retribuzioni più elevate, dovevano farlo per tutti e non solo per i giudici. Così parlò Tesauro. 12.000 euro netti e dispari, 12.000 e dispari, ma decisioni da prendere che tolgono il sonno. Caro Milan, il problema siete voi, tu e quel decerebrato di Cruciani. Alessandro Milan, il mandrillone dell'informazione. Addirittura. E allora siamo qui a parlare del Jobs Act, dunque, che è il tema principale su cui aprono tutti i quotidiani dopo la direzione del Partito Democratico molto molto combattuta ieri, o come se le sono date soprattutto la vecchia guardia D'Alema e Bersani nei confronti del premier Matteo Renzi. Comunque andiamo con ordine. Emilia Patta racconta, pagina 3 del Sole 24 Ore, le novità Jobs Act, Renzi media sull'articolo 18, questo è il titolo. Dobbiamo andare all'attacco, in questi anni la Repubblica non è stata fondata sul lavoro ma affondata sulla rendita. Questo era stato l'esordio di Matteo Renzi, che però racconta il Sole 24 Ore alla fine parte all'attacco nel suo atteso discorso, ma non arretra, ovviamente difende la sua linea. Alla fine però c'è una sorta di compromesso quando Matteo Renzi dice l'articolo 18 rimane per il discriminatorio e il disciplinare, cioè per i licenziamenti discriminatori e disciplinari. Questo riferimento ai licenziamenti disciplinari è lo spiraglio dell'intesa con la minoranza. Certo, le fattispecie andranno poi individuate con precisione in modo da dare certezza alle imprese, ma l'apertura c'è. E c'è poi il riconoscimento anche del ruolo del sindacato quando Renzi a sorpresa annuncia di essere disponibile a riaprire la sala verde, quella in cui ci sono i tavoli di concertazione con CGIL, CISL e UIL, tutte le sigle. Dunque una sorta di apertura. Però che cosa è andata in scena poi con le repliche di Bersani, con le repliche di D'Alema? Beh, degli attacchi e delle spaccature abbastanza evidenti, insomma, diciamo una dialettica molto vibrante, eccolo qui. Anche se racconta il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli, la sensazione di Matteo Renzi, una volta finita la direzione con il voto nettamente a favore della sua relazione, quindi della riforma del lavoro, la sensazione, appunto, dicevamo, del premier è questa: li ho spianati. Così avrebbe detto ai suoi Matteo Renzi, definito dal Corriere su di giri. La sua frase si riferisce proprio a Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani. Di D'Alema dice Renzi: Massimo, con tutto quel rancore, ci sta dando una mano. Ve l'avevo detto che era incavolato nero per la storia delle nomine europee. E allora Bersani e D'Alema masticano amaro per le defezioni. Ostentatamente, mentre il segretario parla, guardano il loro iPad. Ovviamente non applaudono alla relazione, ma il presidente del Consiglio non sembra troppo preoccupato per le reazioni dei due, anzi, certo, ora la partita non è finita, si sposta al Senato. Beh, Bersani l'avete sentito parlare di metodo boffo nei suoi confronti, al che Renzi ha risposto: solidarietà massima per il metodo boffo, ma io al massimo uso il metodo buffo. Giuro, tutto vero, tutto certificato. Mentre D'Alema ha detto a Renzi: beh, bisognerebbe studiare, potrei fare l'elenco delle cose che sono state dette non vere. Ha citato Stiglitz, no? Le riforme del lavoro si fanno quando c'è la crescita, non quando c'è la recessione. E ha detto: capisco che Stiglitz non è amato, però lui ha vinto un Nobel, mentre i consiglieri giovani del Premier non mi risulta. E, insomma, capite che sull'onda del sarcasmo, comunque, le stoccatine, le frecciatine, le vere e proprie divisioni non sono mancate. Racconta Goffredo De Marchis a pagina 2 e 3 di Repubblica. Renzi dice che il caso è chiuso, che alla fine Bersani e D'Alema hanno fatto una brutta figura perché è finita 80% a 20 per me. E quindi la minoranza dovrà adeguarsi in Parlamento. I gruppi parlamentari cambiano la decisione della direzione, ma scherziamo, che fanno? Mandano sotto Speranza, cioè il capogruppo alla Camera, lo costringono alle dimissioni? E ancora Renzi avrebbe detto ai suoi: ma dove vanno Massimo e Pierluigi? Fanno la scissione, un nuovo partito, un nuovo governo? E come, con 20 voti? Un altro governo muore prima di nascere, dice beffardo Renzi. Con me l'80%, la partita è chiusa, adeguatevi. Dall'altra parte Massimo D'Alema invece ai suoi, sempre nel retroscena di Goffredo De Marchis, dice: sono venuti a trovarmi Della Valle, è venuto a trovarmi Oscar Farinetti, anche lui è molto deluso da Renzi, così dice D'Alema. Farinetti è stato nostro ospite, effettivamente qualche giorno fa ha detto delle questioni sull'articolo 18, tipo l'articolo 18 va bene così com'è, che poi sono state riprese anche dai giornali, proprio a dire che c'è così non più forse questa grandissima sintonia tra Farinetti e Renzi. E D'Alema dice: è venuto a trovarmi Farinetti ed è molto deluso da Renzi. Sta di fatto che per il Fatto Quotidiano Massimo e Pierluigi, cioè D'Alema e Bersani, sono i giapponesi di Matteo, cioè coloro che sono pronti a fare la battaglia fino alla fine. Anche per il Messaggero, la coppia D'Alema-Bersani alla carica contro il Premier. Che succederà ora in Parlamento? Intanto D'Alema e Bersani si devono vedere dalla accusa di Roberto Giachetti, che è vicepresidente della Camera dei Deputati del PD, il quale, intervistato da Francesca Schianchi, dice: scusate, ma sa quanti giorni è stato al governo Bersani? 2571, Bindi 2158, D'Alema un po' meno, 1271, ma ha fatto il Premier. Damiano, ex ministro del lavoro, 720 giorni al governo. Chiti 1132, e questi compagni ancora pontificano e propongono soluzioni miracolose. Al che La Stampa dice: Giachetti, scusi, veramente lei si è messo a contare i giorni di governo di ciascuno di queste persone? Certo, nei giorni scorsi, quando ho notato il combinato disposto delle dichiarazioni di minoranza contro Renzi col fatto di dire che sul tema del lavoro si deve votare secondo coscienza, allora ha ragione Grillo, facciano cadere Renzi. Ma la minoranza non vuole farlo cadere, il problema è il non detto, così Roberto Giachetti, che insomma dice: queste persone che pontificano ancora sono state al governo per i giorni che vi ho snocciolato. Dicevamo, tutto a posto dunque? La riforma del lavoro è passata in direzione tutto a posto? Eh no, ora arriverà al Senato. Ed è lì che si vedrà se i numeri ci sono, se soprattutto c'è qualcuno disposto a far cadere questa legislatura. Poi magari sapete come funzionano queste cose, la rielezione non è proprio assicurata se uno fa cadere la legislatura, e allora meglio tenersi il posto al Senato, o no? Potrebbero entrare anche questi tipi di discorsi. Sta di fatto che il Corriere sta già facendo i calcoli dei numeri, il titolo a pagina 6 è questo: in Senato la maggioranza è appesa a 7 voti. Sette voti, Alessandro Trocino, c'è tutta la spiegazione, Forza Italia, NCD, PD, Scelta Civica, Per l'Italia, insomma capire chi sta è Movimento 5 Stelle, chi sta per la riforma, chi sta contro. E i numeri sarebbero questi: la soglia di maggioranza è 161 al Senato e secondo i calcoli del Corriere della Sera le forze in aula prevedono 168 al momento i favorevoli alla riforma voluta da Renzi. Sapete che questa legislatura è stata eletta col Parlamento e il Senato, quindi oltre che la Camera, con Renzi che non era Presidente del Consiglio, quindi non ci sono molti renziani all'interno del PD. 168 al momento i voti per Renzi su 161 di maggioranza necessaria. Che succederà? Chi lo sa? Intanto, come raccontano i vari giornali, è confermata l'indiscrezione che qualche giorno fa lanciava al Sole 24 Ore la possibilità di mettere il TFR in busta paga. A partire forse dal 1 gennaio del 2015 il TFR in busta paga, gli imprenditori sono contrari e Confindustria dice è tutto complicato, le piccole e medie imprese dicono è impensabile. Sta di fatto che l'idea è quella di anticipare il TFR in modo da dare, secondo il Messaggero, una media di 75 euro in più al mese in busta paga, quindi per rilanciare i consumi agli italiani. Si registra anche la critica di Massimo Gramellini, oggi in prima pagina della Stampa, il suo Buongiorno, è intitolato proprio così, trattamento di fine futuro. Scrive Gramellini: sono completamente d'accordo a metà con l'annunciatore di Firenze quando gigioneggia di inserire la cara vecchia liquidazione in busta paga. Nel migliore dei mondi possibili sarebbe perfino apprezzabile il tentativo di trasformare il lavoratore in un adulto. Per decenni lo si è trattato come un irresponsabile che andava protetto da se stesso. Non gli si potevano dare tutte le spettanze nel timore che le divorasse, arrivando nudo alla meta, solitamente micragnosa, della pensione. Sminuzzando il TFR in rate mensili, si affida al beneficiario lo scettro del proprio destino. Toccherà a lui, non più al datore di lavoro, allo Stato mamma, decidere la destinazione dei suoi soldi. Purtroppo la realtà non è fatta della stessa sostanza degli annunci. Intanto il TFR è un denaro che esiste solo come promessa. Nel momento in cui lo si trasformasse in moneta, per pagarlo i datori di lavoro sarebbero costretti a indebitarsi. Quanto allo Stato, passerebbe da mamma a matrigna. L'astuto annunciatore si è dimenticato infatti di dire che in busta paga la liquidazione soggiacerebbe a un'aliquota fiscale più alta. L'imprenditore ci perde, lo Stato ci guadagna e il lavoratore incamera qualche euro da gettare nell'idrovora boccheggiante dei consumi, ma smarrisce l'idea di futuro con cui erano cresciute le generazioni precedenti. La liquidazione era un tesoretto intorno a cui coltivare speranze e progetti per il tempo a venire. Il suo sbriciolamento rischia di diventare l'ennesimo sintomo di un mondo che si sente a fine corsa e preferisce un uovo sodo oggi a una gallina di fine rapporto domani. Questo è Massimo Gramellini, ma comunque Mauro Meazza era sul Sole 24 Ore, questa anticipazione, come finirà? Buongiorno, sì, buongiorno Alessandro, ma non so, leggendo dal Sole 24 Ore il contributo oggi di Marco Rogari, sembra di capire che diciamo l'annuncio sia di grande ambizione, come dire, mutuando le parole di Gramellini, poi la sostanza, la realtà non è fatta della stessa sostanza degli annunci, perché infatti oltre alle questioni appunto della liquidità per le aziende, che sono poi la cosa più evidente, e poi c'è appunto questo del prelievo fiscale, il TFR ha tutto un sistema particolare. A proposito, devo fare un minutino di radiofisco, posso, il tuo permesso? Certo. Ti ringrazio molto. Allora, qui radiofisco, attenzione, da domani F24 online, attenzione, non è un messaggio bellico, anche se c'è questa sigla un po' F24, sembra un po' gli F35, no, F24 online, e fate molta attenzione specialmente a quelli a saldo zero per compensazione. Comunque, se vuoi sapere di più, Alessandro, vai su Norme e Tributi, prima pagina c'è spiegata tutta la la vicenda, così come questo non sarà oggetto di interrogazione, invece lo sarà, caro mio, la Tasi. Allora, nelle tue condizioni io ti direi rivolgiti a SOS Tasi, che sta sul sito del Sole 24 Ore. È possibile anche mandare delle domande, perché poi anche lì, come diceva il bardo, ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente degli uomini, e figurati a proposito di case se non ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente del legislatore. E quindi, insomma, con le condizioni, i casi possibili sono tantissimi, quindi se ci sono dubbi, perplessità eccetera, SOS Tasi sul sito del Sole 24 Ore. Naturalmente sulle pagine Alma e Tributi oggi anche il condominio, ma poi c'è tutto il trattamento naturalmente che riguarda la riforma del lavoro, il Jobs Act, ma invece io ti voglio parlare dei tuoi 2 euro. Sì. Ce li hai sempre, sì, lì, sì, li tieni lì stretti, aspetti di come incrementarli con la liquidazione. E io lo so, guarda, la liquidazione però ti darà poi 50 centesimi in proporzione se continuiamo con questo andazzo di 2 euro. Ti voglio dire che oggi Vito Lops firma la bussola del risparmiatore sul Sole 24 Ore, proprio interrogandosi sui rendimenti più convenienti, specialmente in materia di titoli di Stato, quindi BOT e BTP, sfida tramite rendimenti reali, questo è il titolo della bussola del risparmiatore di Vito Lops, che se tu volessi un giorno smobilizzare, insomma, con questi 2 euro che continui a tenerti in tasca, a tenere fermi, prima o poi, guarda, anche se lo dirà anche il Premier, che devi farci qualcosa. Certo. A voi è Mauro Meazza, l'uomo che guadagna 10.000 euro al mese, ma non dorme la notte per i titoli che deve fare sul Sole 24 Ore. L'hai sentita questa? Guarda che mi hai abbassato lo stipendio, io non vorrei. No, perché l'hai sentito il Presidente della Corte Costituzionale, intervistato dal Corriere, ha detto: guadagno 12.000 euro al mese, ma non dormo la notte per le decisioni che dobbiamo prendere. Ok, no, io comunque sto sopra, sì, e dormo benissimo e sto sopra. Esatto, tu stai sopra e dormi alla non so grande. Se vuoi lanciare un concorso come i fagioli di quella conduttrice di un tanti anni fa, quanto guadagno realmente Mauro Meazza, ammesso che gliene freghi a qualcuno. Vabbè, chiudiamola qua, Alessandro. Traffico. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. ovvio. Allora, l'allarme è stato lanciato dal ministro dell'Interno Alfano di un'allerta elevatissima in Italia perché l'Italia sostiene i raid in Siria. Militarmente partecipiamo anche noi, anche se come non bombardando ovviamente contro la coalizione, contro l'ISIS, però chiaramente ci sono delle preoccupazioni. Il titolo del Corriere della Sera è questo: passati dall'Italia 48 militanti dell'ISIS, 48 jihadisti che sono stati temporaneamente in Italia e che ora, secondo i messaggi che sono stati lanciati dall'intelligence italiana, si trovano a combattere. E, tra l'altro, Alfano ha annunciato un decreto con misure speciali per sorvegliare i soggetti a rischio terrorismo. Ne parla anche Avvenire con Vincenzo Spagnolo, anticipando con il titolo "Ecco il giro di vite del governo". Si parla di 2 nuove norme da inserire nel codice penale. La prima punta a estendere alle persone reclutate dal jihadismo la fattispecie dell'articolo 270-quater, cioè quello che prevede arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, che attualmente punisce con detenzione da 7 a 15 anni solo i reclutatori, cioè chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali. La seconda norma penale dovrebbe alzare un argine al fenomeno dei foreign fighters, cioè i combattenti stranieri, stabilendo che chiunque prende parte a un combattimento all'estero commette un reato qualora non sia cittadino o stabilmente residente nel paese in cui si è recato a combattere. Quindi se un italiano va a combattere una guerra non sua, diciamo così, non del suo paese, commetterebbe un reato. Chiaro, c'è preoccupazione, noi ne parleremo anche alle 8:30, avremo un esperto di terrorismo internazionale che è Lorenzo Vidino, avremo il generale Vincenzo Camporini, che è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, per raccontarci se dal punto di vista militare stiamo facendo la cosa giusta. Intanto vi segnalo un articolo del Secolo XIX molto inquietante. Luigi Guelpa racconta come si è trasformato il califfato islamico con capitale Raqqa in Siria, ma c'è anche Mosul in Turchia, in Iraq, nel nord dell'Iraq, come città dove, pensate un po', sono stati vietati gli occhiali da sole perché la luce è un dono di Dio. Vietate per carità le scarpe con tacchi per le donne. Il velo deve essere integrale, ma con una sola fessura per un occhio. Aboliti i bagni pubblici che provocano promiscuità e sguardi impuri. Divieto di fumo. Vietate le bevande gasate, invenzioni sioniste. Vietato il succo di pompelmo, visto che proviene soprattutto da Israele. Vietata la televisione. Vietato lo sport. Vietata l'aggregazione di persone tranne che in moschee. Vietate le suonerie dei telefonini. Vietate immagini sui display dei telefonini. Solo versetti del Corano. Divieto di qualsiasi capo d'abbigliamento intimo che riporti scritte in inglese. Questo è il califfato islamico, racconta il secolo XIX come è stato trasformato in pochi mesi dall'ISIS. Veniamo all'Italia, dove si registra per la Lega un nuovo responsabile per l'immigrazione. Si chiama Tony Iwobi, particolarità pelle nera, proveniente dalla Nigeria. Assessore leghista a Spirano in provincia di Bergamo, rilascia qualche dichiarazione a Libero, a Matteo Pandini. Ci scusi, dottor Iwobi, intanto s'offende se la chiamano negro? Questa è la prima pregnante domanda. Ma no, dipende dal contesto. Se uno me lo dice con tono negativo, magari lascio anche correre. Comunque non dimentico di essere di colore. Sono un africano, nigeriano, non dimentico le mie origini. Mi scusi, ma come la mette con i bingo bongo, Kieng Orango, robe del genere della Lega? Ma non è razzismo, risponde Tony Iwobi. Rientra in una logica di scontro politico. Insomma, non mi si è mai sentito a disagio nella Lega, mai. E comunque il razzismo è un sentimento che spesso è nascosto e arriva anche da insospettabili. Ma nella Lega non ho mai subito discriminazione. E poi racconta la sua vita. Sono laureato in informatica, sono arrivato in maniera regolare dalla Nigeria, ho ottenuto il permesso di soggiorno, ero iscritto all'università, ho dovuto presentare una serie di documenti. E dice: Mare Nostrum è una follia. Andrò anche con questo nuovo incarico a Lampedusa per dirlo. Anche per Repubblica, immigrazione, la Lega sceglie un nero e certamente questa è una notizia. Mentre Vladimir Luxuria, ormai si sa, dopo essere andata a braccetto con Francesca Pascale, la fidanzata di Berlusconi, che è andata al Gay Village a Roma, secondo alcuni potrebbe addirittura Vladimir Luxuria entrare in Forza Italia, questo per il Libero, folgorata dal Cavalieri. Lei per la verità fa un'intervista al Fatto Quotidiano, intervistata da Sandra Amurri. Vladimir Luxuria dice: viva la Pascale! Il problema sui diritti civili è Agnese Renzi. A parte che dice: non andrò mai, voterò Forza Italia, la mia identità è di sinistra, è chiara e forte. Ma ho parlato con Berlusconi, conferma. Ho parlato a lungo con la Pascale, una donna coraggiosa, una donna che ha un forte ascendente su Berlusconi. Mentre sulla questione di sinistra, perché si dice: ma non dovrebbero essere battaglie di sinistra queste? Ma guardi, io farei subito l'invito anche ad Agnese Renzi, ma qualcuno di molto affidabile mi dice che sia proprio lei, la First Lady, a frenare il Premier sui diritti. Come dire che è bigotta, lo è sicuramente, è una cattolica osservante. Così Vladimir Luxuria su Agnese Renzi. Vabbè, sappiate che Vanity Fair Francia ha messo il nostro Presidente del Consiglio tra i 30 best dressed al mondo, cioè i 30 meglio vestiti al mondo. Matteo Renzi, oggi Selvaggia Lucarelli, fa uno spassosissimo articolo a dire: non ci posso credere. Lui, quello che sbaglia i bottoni con la Merkel. Lui, quello che mette i giubbetti alla Fonzi. Lui, quello che andò vestito da studente alla Ruota della Fortuna come un vero nerd, è un'offesa al nostro stile. Vabbè, insomma, qui siamo quasi, quasi in ambito la carta costa, ma la carta costa no, c'è di peggio. Vince Maria Corbi sulla Stampa, lo sapevo che doveva arrivare una pagina intera, una della stampa, non mezza, non tre quarti, una della stampa con tante foto dedicate alla nuova icona di stile. Chi è la nuova icona di stile? La moglie di George Clooney, Amal! Me ne frego!